gli speciali di Radio 24. Buongiorno, buongiorno Gianfranco Fabi. Per questo speciale di Radio 24 abbiamo rubato oggi lo spazio di Deborah Rosciani di Savadanaio, ma Deborah Rosciani è con noi, tra poco ci aggiornerà della borsa. Ma in questo momento, proprio mentre vi parliamo, sta iniziando al Cairo l'attesissimo discorso del presidente americano Barack Obama. Lo seguiremo insieme a Gigi Donelli, che è qua a fianco a me, e grazie anche alla traduzione di Sky potremo sentire le parole, le traduzioni delle parole del presidente americano. Un discorso particolarmente atteso, un discorso in cui Barack Obama detterà un po' le linee guida della sua politica verso il Medio Oriente e dei suoi rapporti verso il mondo musulmano. È un discorso quindi molto atteso dopo gli attentati del 2001, dopo la guerra dell'Iraq, dopo tutte le vicende che hanno interessato il Medio Oriente e le difficoltà della pace. Ecco, vediamo adesso. Barack Obama sta entrando nell'aula dell'università. Come sentite, accolto da un grande applauso. Ovviamente l'università è molto controllata, non sono solo studenti ma anche diplomatici, personalità presenti. Thank you very much. Thank you very much. È molto sorridente, tranquillo, saluta la folla. Thank you so much. Good afternoon. I am honored. Gigi. Cominciamo dunque. Sono onorato di essere nell'antica città del Cairo, è l'esordio del presidente. Per oltre mille anni Al-Azhar è stato un faro della cultura islamica. E per oltre un secolo l'Università del Cairo è stata la fonte dell'affermazione del cambiamento in Egitto. Sono dunque grato a queste due istituzioni che rappresentano l'armonia e la tradizione e il progresso. Assalamu alaikum, che la pace sia con voi dunque. Lo ricordo, trasmette dall'aula magna dell'Università Al-Azhar al Cairo. Ci troviamo in un tempo di tensione tra gli Stati Uniti e il mondo islamico, in tutto il mondo. Le relazioni tra l'Islam e l'Occidente includono anche secoli di coesistenza e di cooperazione, ma naturalmente anche conflitti e guerre di religione. Diritti e le opportunità a molti musulmani. E ecco, in questa prima parte mi sembra che Barack Obama stia soprattutto cercando di portare avanti il suo discorso, cercando di stabilire un feeling con quanti lo seguono, quindi con gli studenti, quindi con le personalità presenti. Sta cercando di quasi di allargare le braccia verso il mondo arabo, verso il mondo musulmano. Sta cercando di tratteggiare, appunto rifacendosi un po' alla storia dell'amicizia, tutto quanto è possibile fare per ristabilire dei contatti che guardino in avanti, quindi che cerchino di portare il dialogo a realizzare qualcosa di concreto. A questo punto io forse lascerei un attimo la parola a Deborah Rosciani, che ci dà gli aggiornamenti di borsa, e poi sentiremo il traffico e poi torneremo con Barack Obama. Allora, rapidamente, oggi la borsa appare piuttosto positiva, recupera i cali di ieri, cali che si sono registrati anche a Wall Street questa mattina a Tokyo. Abbiamo un rialzo di un punto in media, Parigi e Francoforte, Londra più prudente, sta guadagnando lo 0,5%, è stata anche più prudente Piazza Affari perché è addirittura scivolata un attimo in negativo, adesso guadagna lo 0,26%. L'appuntamento centrale della giornata è con la Banca Centrale Europea, che si riunisce, che è già riunita da questa mattina alle 13.45, decisione sui tassi e comunicazione sui tassi di interesse, alle 14.30 conferenza stampa del governatore della BCE Trichet. Piazza Affari rapidamente i migliori titoli: Unicredit più un punto e mezzo, Campari più 1,60, Eni +1,44, in negativo invece Enel, -2,86, prosegue l'aumento di capitale, Mondadori, -2,53, Popolare di Milano, -2,28, credo che possiamo ritornare al Cairo. Grazie. Gli estremismi più violenti hanno sfruttato le tensioni tra i nostri paesi, tra i nostri mondi, ed è una piccola ma potente minoranza di musulmani che ha sfruttato questo fattore, ha detto poco fa Barack Obama mentre ne eravamo in collegamento. Dunque le nostre relazioni oggi devono essere definite dalle nostre differenze e quindi permetteremo e daremo forza a coloro tra di noi e tra di voi che favoriranno la pace e combatteremo chi invece promuove il conflitto piuttosto che la cooperazione. Cercherò in questo intervento, in questo pomeriggio, naturalmente il Cairo sono un'ora avanti, di affrontare quelli che sono i problemi che ci hanno portato a questa situazione. Troppo spesso queste questioni sono state affrontate solo dietro porte chiuse, spiega Barack Obama. Dobbiamo imparare a rispettare l'un l'altro, dobbiamo imparare dunque a rispettarci. Be conscious of God and speak always the truth. E dobbiamo imparare anche nel rispetto di Dio a affermare sempre la verità. That is what I will try to do today. Oggi è ciò che cercherò di fare oggi, di dirvi la verità nel miglior modo possibile. And firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart. E d'altra parte la mia certezza che le ragioni che ci spingono a comunicare siano ben più forti di quelle che ci dividono. Sono un cristiano. From a Kenyan family that includes generations of Muslims. Mio padre viene da una famiglia del Kenya che include generazioni di musulmani. And heard the call of the azan at the break of dawn. Parte della famiglia cresciuta in Indonesia e sentiva l'azan, quindi il muezzin che canta la preghiera la mattina. Dignity and peace in their Muslim faith. Mi hanno insegnato a rispettare la dignità e della fede islamica. It was Islam at places like Uluzala that carried the light of learning through so many centuries. Sono stati proprio luoghi come l'università di Al-Azhar che hanno portato, elevato la luce della conoscenza per molti secoli e hanno permesso e hanno spianato la strada al rinascimento europeo e all'illuminismo. Innovation in Muslim communities that developed the order of algebra. È stata l'innovazione delle comunità musulmane che ha sviluppato l'algebra, il nostro compasso magnetico e gli strumenti di navigazione. Molte delle nostre conoscenze nella stampa e la nostra anche conoscenza di come alcune malattie si diffondano e di come possano essere affrontate e sconfitte. La cultura islamica ha dato a tutti noi meravigliosi archi, meravigliosi luoghi architettonici, poeti senza tempo e oltre il tempo e meravigliosa musica, ma anche i calligrafi così cari alla tradizione e luoghi di pace e di contemplazione. E soprattutto, I also know that Islam has always been a part of America's story. Ho sempre saputo anche che l'Islam è sempre stata parte della storia americana. Lo sapete, la prima nazione a riconoscere il mio paese fu il Marocco. Nel 1796, firmando il Trattato di Tripoli, il nostro secondo presidente John Adams scrisse: gli Stati Uniti non hanno in sé nessun carattere di inimicizia nei confronti delle leggi, religioni o tranquillità del mondo musulmano. E dalla nostra fondazione, gli americani di religione islamica hanno arricchito gli Stati Uniti d'America. Hanno vinto premi Nobel, hanno partecipato alle sfide sportive, hanno costruito i nostri edifici più alti e acceso la torcia olimpica. E quando il primo musulmano americano è stato eletto al Congresso, ha preso il giuramento, ha assunto il giuramento di difendere la Costituzione, usando lo stesso Santo Corano che uno dei nostri padri fondatori, Thomas Jefferson, teneva nella sua libreria personale. Ecco, ci sono molti applausi che contraddistinguono e interrompono questo discorso di Barack Obama. Un discorso che, come avete sentito, è fatto molto di aperture, di costruzione di un'unità, di sottolineature di tutto quanto di positivo c'è. Quasi sembra di ripercorrere quella famosa frase per cui cerchiamo ciò che ci unisce, non ciò che ci divide, che non era certo musulmana, ma che è, appunto in questo discorso di Obama sembra di voler ricostruire un'unità. E non a caso Obama all'inizio era partito ricordando come dopo il 2001, dopo gli attentati, ci fosse quasi la tendenza a considerare inevitabile l'ostilità tra l'Occidente e l'Islam per colpa di alcuni musulmani. Ora Obama in questo suo discorso tenta di ritracciare un'unità di fondo che nasce dalla storia e che è fatta anche sulle pietre miliari dei grandi diritti, delle grandi tradizioni. L'ultimo applauso era quando Barack ha parlato del suo impegno a combattere gli stereotipi. L'America, d'altra parte, non è uno stereotipo, dice Obama, non è quel crudo stereotipo dell'impero dell'interesse. Gli Stati Uniti sono stati il luogo e una fonte di progresso nel mondo intero. Siamo nati da una rivoluzione contro l'impero. Siamo stati fondati intorno agli ideali e all'ideale per cui tutti sono creati uguali e abbiamo sparso il nostro sangue per secoli per combattere, per dar senso a queste parole. Di molti uno, questo è il nostro motto. An African American with the name Barack Hussein Obama could be elected. Non è certo privo di significato il fatto che un afroamericano che si chiama Barack Hussein Obama possa essere oggi il presidente degli Stati Uniti. But my personal story is not so unique. Ma la mia non è una storia unica. Dream of opportunity for all people. Il sogno delle opportunità per tutti non è diventato realtà per tutti quanti negli Stati Uniti, ma le sue premesse esistono per tutti nel nostro paese. E questo riguarda anche quasi 7 milioni di americani di religione musulmana che godono del sistema educativo, che sono di un sistema educativo che è più alto della media mondiale. La libertà nell'idea americana è indivisibile dalla prassi della libertà e dalla prassi della libertà religiosa. Per questo, nelle moschee di ogni Stato dell'Unione e abbiamo oltre 1200 moschee all'interno dei nostri confini. Ed è per questo che il governo degli Stati Uniti è andato in causa per proteggere i diritti di una donna, di una ragazza, che delle donne e delle ragazze che portano l'hijab e per punire coloro che vorrebbero negar loro questo diritto. Ecco, questo è un punto particolarmente importante, ma insieme particolarmente delicato. Un punto forte che Obama ha sottolineato con decisione, ma è un punto delicato per il mondo arabo, un mondo che ovviamente dalla sua prospettiva riconosce la sua religione come l'unica religione vera e quindi condiziona la possibilità di esprimere la libertà religiosa al proprio interno. L'Egitto è un paese in cui c'è molta libertà religiosa, altri paesi invece sono più integralisti, sono più chiusi, sono più intolleranti verso le religioni. Quindi questo punto, sottolineato con forza da Barack Obama, è certamente un punto in cui il presidente americano sottolinea l'apertura, la democrazia, la libertà del sistema americano. Americano lo sottolinea come una possibilità di crescita costruttiva ed è un richiamo anche alla crescita costruttiva e al dialogo che si deve avere con il mondo arabo, tra mondo arabo e mondo occidentale. Abbiamo imparato dall'esperienza recente che quando il sistema finanziario si indebolisce in un paese, La prosperità è colpita ovunque. Quando un'epidemia influenzale colpisce, riguarda tutti e tutti sono a rischio. Quando una nazione insegue il sogno nucleare, il rischio di un attacco nucleare cresce in tutte le nazioni. Quando gli estremisti operano nelle montagne e mettono in pericolo altre persone attraverso le montagne e gli oceani, bene, quando gli innocenti in Bosnia e nel Darfur sono uccisi, questo riguarda tutti e questa è la responsabilità che abbiamo l'un l'altro in questo ventunesimo secolo. That is the responsibility we have to one another as human beings. Questa è dunque la responsabilità che abbiamo rispetto l'uno all'altro come esseri umani. Human history has often been a record of nations and tribes and yes, religions. Certo, la storia degli uomini, dell'uomo, è da sempre una sequenza di nazioni, di tribù, di rapporti di forza e di interessi che andavano perseguiti. Ma questo è un tempo nuovo, dice Barack Obama. Questi atteggiamenti non sono parte di questo mondo nuovo. Ogni ordine internazionale che eleva una nazione, un gruppo di nazioni sulle altre, non potrà che fallire. E quindi, qualunque cosa pensiamo del passato, non dobbiamo esserne prigionieri. I nostri problemi vanno affrontati insieme e il progresso deve essere condiviso. Ecco, forse è interessante sottolineare questo passaggio di poco fa, quando Obama ha parlato, senza parlarne direttamente, del problema iraniano, del problema nucleare iraniano. E lo ha fatto partendo da una similitudine. Quando un sistema finanziario ha in sé una malattia, questa malattia la porta anche in altri paesi. Ed era in fondo un senso di autocritica, perché il sistema finanziario che ha portato la malattia in altri paesi è stato negli ultimi mesi il sistema americano. La crisi finanziaria è nata dal fallimento del sistema finanziario americano. Ora Obama poi ha detto, e così avviene quando una nazione sta cercando di portarsi, di creare una potenza nucleare, quindi il riferimento è esplicitamente all'Iran e il rischio di attacchi nucleari cresce. Ecco, in questo senso, con questi riferimenti impliciti, ma partendo da un'autocritica, il richiamo di Obama all'Iran è stato molto netto, pur con tutta la diplomazia necessaria. E prosegue Obama, lasciate che io sia molto chiara, in Ankara, quindi in Turchia, ho detto che l'America non sarà mai in guerra contro l'Islam, ma sarà sempre e confronterà sempre l'estremismo violento che pone una grave minaccia a tutti noi. Gli Stati Uniti perseguono Al-Qaeda, non lo facciamo per scelta, ma per necessità. Cerchiamo di essere chiari. Al-Qaeda, l'11 settembre, ha ucciso circa 3.000 persone. Le vittime erano persone, uomini e donne, bambini degli Stati Uniti e di altri paesi, che non avevano fatto nulla per minacciare nessuno. E nonostante questo, Al-Qaeda ha scelto di assassinare queste persone e ha vantato il credito per quell'attacco. E ancora oggi, alcuni stati indicano la loro determinazione ad uccidere altri su una scala di massa. Sia chiaro, non confondiamoci, noi non intendiamo tenere le nostre truppe in Afghanistan. Non puntiamo ad avere delle basi militari in quel paese. È faticoso, è un'agonia per l'America perdere i propri giovani uomini e donne ed è costoso e politicamente difficile continuare questo conflitto. Saremmo felici di riportare ciascuno di loro a casa. Ecco, siamo circa a metà del discorso di Barack Obama. Ci fermiamo qualche minuto per il GR. un cuore matto. Ciao, sono Little Tony. Il cuore sarà anche matto, ma se lo segui ti porta in America. Acquista Danacol e partecipa al concorso per vincere un viaggio negli USA e il mio concerto alle cascate del Niagara. Informati su www.danacol.it. Concorso valido dall'11 maggio al 10 luglio. Montepremi 10.793 euro IVA esclusa. Perché vado a Riccione Terme? Perché la salute è importante. Dalle sorgenti di pura acqua sulfurea, le cure termali di cui ho bisogno. Perché vado a Riccione Terme? Perché voglio prendermi cura del mio corpo. Nella spa, relax, massaggi, prodotti e trattamenti di bellezza. Perché vado a Riccione Terme? Perché tutta la famiglia si diverte al Parco del Benessere Perle d'Acqua, tra cascate colorate, piscine e giochi per bambini. Riccione Terme, acqua che lascia il segno. Informazioni su riccioneterme.it. Legge Patria è un po' come andare al cinema e rivedere 30 anni della nostra vita. Con i buoni, i cattivi, la musica, le bandiere, un po' di kiss kiss, molto bang bang e tutti noi come protagonisti sullo schermo. Patria, di Enrico De Aglio. Gli ultimi 30 anni della nostra storia come in un film. Il Saggiatore, in libreria. GR 24, il sole 24 ore. 12:30 minuti in studio, vi parla Daniele Biacchesi. Questi alcuni dei temi che tratteremo tra poco alle 13 nell'edizione di GR Extra Large. Lo storico discorso del presidente americano Obama che state sentendo nel nostro speciale all'Università del Cairo. Cerchiamo un nuovo inizio, sospetti e discordie devono finire, non siamo in competizione, abbiamo principi comuni e ora di superare le differenze. Ha detto poco fa Obama. Abuso d'ufficio, reato ipotizzato dalla Procura di Roma nei confronti del premier Silvio Berlusconi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'impiego improprio degli aerei di Stato. Inizia oggi, con l'apertura dei seggi in Olanda e Gran Bretagna, la lunga tornata elettorale per le elezioni. La Gran Bretagna deve nominare, lo ricordiamo, 72 eurodeputati, i Paesi Bassi 25. Gli occhi sono puntati soprattutto sull'Olanda, dove questa sera sarà hanno resi noti exit poll e unico paese dell'Unione Europea verranno anticipati ufficiosamente i risultati elettorali. Poi le pagine di cronaca con la vicenda dei 5 magrebini arrestati dai ROS e dai carabinieri. Stavano preparando attentati a Milano e a Bologna. Secondo l'accusa, nella primavera del 2006 avevano intenzione di colpire la metropolitana a Milano e la chiesa di San Petronio a Bologna. È stata individuata dalla Digos di Verona la persona che nella tarda serata del 1 giugno ha aggredito il procuratore della Repubblica di Verona, Mario Giulio Schinaia. Si tratta di uno studente veronese di 17 anni, incensurato. E infine la Cina che condanna le dichiarazioni del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che chiede a Pechino però di fare chiarezza sul massacro di 20 anni fa in piazza Tiananmen. Ci risentiamo dunque alle 13. Per Extra Large il nostro speciale su Barack Obama continua e prosegue su Radio 24. È primavera. Avete voglia di divertirvi, emozionarvi, innamorarvi? Fatelo con Porsche. Venite a provare i nuovi modelli a motore centrale al Boxster e Cayman Tour. Scoprite il calendario su www.porsche.it fino al 7 giugno. Offerta Troni meno 15%, TV Telefunken 32 pollici TE 32 857 a 296,65 euro. Offerte killer dal 4 al 21 giugno da Troni meno 15% su centinaia di prodotti delle migliori marche. Info nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Pronto Marco? Sì, sì, stiamo tutti bene. E sai com'è? È bastato un attimo e ci siamo persi. Cosa? No, no, non mandare nessuno, non pensarci nemmeno. Qui stiamo troppo bene. C'è un posto dove perdersi è un vero piacere. Ma certo, è l'Austria. Vieni a ritrovare te stesso circondato da natura, cultura e armonia. Scopri tutte le offerte sul sito austria.info. Tutti lo vogliono, è il Marsiglia di Chantecler. Chantecler, Marsiglia liquido per lavatrice. Il Marsiglia di Chantecler, il primo, l'originale, il pulito più invidiato. Da Chantecler, il gallo del pulito. Chi pulisce più di Chantecler? gli speciali di Radio 24. Bentornati da Gianfranco Fabi e Gigi Donelli a questo speciale di Radio 24 dedicato al discorso che in questo momento, in questa ora, Barack Obama, il presidente americano Barack Obama, sta tenendo all'Università del Cairo. La prima parte, Barack Obama ha fatto una grande apertura, ma più che un'apertura verso il mondo islamico, ha detto che l'Islam fa parte della storia del mondo, fa parte della storia dell'Occidente. C'è una unità di fondo che va riscoperta, che va sottolineata, che va approfondita. E questa è la prospettiva in cui Obama vuole tratteggiare anche la sua politica estera, la sua diplomazia, la sua volontà di portare qualche speranza di pace, di continuare sulla strada della pace verso il mondo medio orientale, nel conflitto palestinese, nel conflitto tra Israele e Palestina. Obama ha ricordato che domani andrà a visitare un campo di sterminio nazista in Germania e su questo fronte, ricordando il passato, ha detto che si deve anche costruire però il futuro. Sentiamo Obama e Gigi Donelli. Sì, Obama parla proprio del secondo, quello che definisce la seconda grande fonte di tensione, il rapporto tra Israele e palestinesi. Il mondo arabo. Buchenwald, appunto, come hai appena citato. Domani visiterò il campo di Buchenwald, che è stato parte del sistema di campi dove gli ebrei sono stati resi schiavi, torturati, uccisi e gassati a morte dal Terzo Reich. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi. Più che l'intera popolazione dello Stato di Israele oggi. Negare questo fatto è senza fondamento, è una fonte di ignoranza e di odio. Minacciare Israele di distruzione o ripetere stereotipi vili nei confronti degli ebrei è profondamente sbagliato e serve solo ad evocare nella mente, nello spirito degli israeliani, quelle memorie dolorose che impediscono la pace che la regione merita. For more than 60 years they've endured the pain of dislocation. Dall'altra parte c'è il popolo palestinese. Per oltre 60 anni hanno sofferto il problema della loro posizione. Molti hanno atteso e hanno trovato rifugio nei campi della West Bank di Gaza e nelle terre vicine in cerca di una vita dignitosa, di pace, di sicurezza, e spesso queste cose non sono mai riuscite a ottenerle. Sono sottoposti a un'umiliazione quotidiana, a umiliazioni quotidiane, grandi e piccole umiliazioni che sono legate all'occupazione. Quindi non c'è dubbio, la situazione per il popolo palestinese è intollerabile. L'America non volterà loro le spalle. Per decenni c'è stata una situazione di stallo, due popoli con aspirazioni legittime, ciascuno con la propria storia dolorosa alle spalle, che rende impossibile il compromesso. È facile puntare il dito per i palestinesi, indicare quindi il dislocamento provocato da Israele, e per gli israeliani indicare e accusare la continua, costante ostilità degli attacchi subiti attraverso tutta la sua storia, dall'interno dei suoi confini, ma anche dall'esterno. L'unica soluzione possibile è quello di completare con i fatti l'aspirazione di entrambi i popoli a vivere in pace in due stati. That is in Israel's interest. È interesse di Israele. Palestine's interest. È interesse palestinese. È interesse dell'America. Ed è interesse del mondo. Per questo vi dico che intendo assumere, perseguire questo obiettivo personalmente con tutta la pazienza che questo compito richiede. Under the roadmap are clear. Gli impegni che le parti hanno assunto ai sensi della roadmap sono chiari. Perché la pace possa affermarsi, è tempo per loro e per tutti noi di assumerci le nostre responsabilità. I palestinesi devono abbandonare la violenza. La resistenza attraverso la violenza e l'omicidio è sbagliato e non porta a risultati. Per secoli i neri americani hanno sofferto la frusta della schiavitù e l'umiliazione della segregazione. Ma non è stata la violenza che ha portato alla vittoria e ha consentito uguali diritti. Questo lo abbiamo visto anche con la gente del South Africa, dell'Africa del Sud e dell'Asia orientale, in Europa orientale ma e in Indonesia. È una storia con una semplice verità. La violenza non porta a nulla. Non è un segno né di coraggio né di potere uccidere o lanciare dei razzi a dei bambini che stanno dormendo o fare saltare in aria donne anziane su un autobus. Ora i palestinesi devono concentrarsi su ciò che possono costruire. Le autorità palestinesi devono essere capaci di sviluppare il governo con delle istituzioni che servano i bisogni della gente. Hamas deve dare a supporto, a ampio supporto tra i palestinesi, ma anche delle grandi responsabilità, svolgere un ruolo che permetta ai palestinesi di conquistare e di ottenere le proprie aspirazioni e unire il popolo palestinese. Hamas deve porre fine alla violenza. Allo stesso tempo Israele deve rendersi conto, deve riconoscere che non esiste solamente un diritto di Israele, né non esiste uno dei palestinesi e basta. Gli Stati Uniti non accettano la legittimità dei protratti insediamenti israeliani. Queste costruzioni violano accordi precedenti. È tempo che questi insediamenti si fermino. Ecco, questo è un punto particolarmente delicato nel rapporto soprattutto tra Stati Uniti e Stato di Israele. Lo si è visto nei giorni scorsi, negli incontri che Netanyahu ha avuto a Washington, la freddezza appunto di Israele verso un alleato storico che resta comunque un alleato molto forte come quello degli Stati Uniti. Però questa posizione di Obama è altrettanto forte. Israele deve terminare la politica degli insediamenti nei territori occupati, deve fare marcia indietro, deve garantire un territorio, il tradizionale territorio della Cisgiordania ai palestinesi perché costituiscono il loro Stato. Ovviamente impegni per entrambe le parti, per i palestinesi, per Hamas che rappresenta gran parte dei palestinesi, ma anche per lo Stato di Israele che non può solo chiedere, deve anche cambiare la propria politica. E questo è un punto molto forte, molto delicato su cui indubbiamente vi saranno difficoltà di relazioni tra Stati Uniti e Israele. Il conflitto arabo-israeliano, prosegue Barack Obama, non dovrebbe più distrarre le genti e le nazioni arabe da altri problemi. Il conflitto deve essere uno stimolo ad agire, uno stimolo per i palestinesi a sviluppare le istituzioni che sosterranno il loro Stato. Dovranno riconoscere la legittimità di Israele e scegliere il progresso al posto della difesa esclusiva che è stato il progetto unico possibile del passato. Non possiamo imporre la pace. Ma in privato, molti musulmani riconoscono che Israele non andrà certo via. D'altra parte, molti israeliani riconoscono la necessità di uno Stato palestinese. È dunque tempo per tutti noi per permettere che si affermino queste due verità. To work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear. Noi vogliamo lavorare per un futuro in cui le madri di Israele e della Palestina possano pensare a un futuro senza paura per i propri figli. Per un futuro in cui la terra santa delle tre grandi fedi monoteiste diventi di nuovo il luogo che Dio intendeva che fosse. Un futuro in cui Gerusalemme sia un luogo sicuro per gli ebrei, per i cristiani e per i musulmani. As in the story of Israel, when Moses, Jesus and Muhammad, peace be upon them, joined in prayer. Un luogo, insomma, in cui Israel, Mosè e Gesù, e naturalmente Maometto, possono unirsi insieme in preghiera. Is our shared interest in the rights and responsibilities of nations. Terzo tema, il tema nucleare. This issue has been a source of tension between the United States and the Questo tema è stato fonte di tensione tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran. Per molti anni l'Iran ha affermato la propria posizione in buona parte come oppositore del mio stesso paese. E c'è ovviamente una storia tumultuosa che ci divide. Ecco, a questo punto dobbiamo fermarci qualche minuto. Già prima Obama aveva anticipato la sua posizione di contrasto molto forte verso un riarmo nucleare iraniano. Lo ripeterà in questa fase. Adesso lasciamo per qualche minuto lo spazio al traffico. Strade in diretta. Per un mezzo pesante che ha preso fuoco è chiusa la 4 Torino-Milano tra l'innesto con la 26 dei Trafori e Novara Ovest verso Milano. Chiuso di conseguenza l'innesto che dalla 26 porta sulla 4 proprio verso Milano. Code invece per lavori sulla 22 del Brennero tra Nogarole Rocca e l'innesto con la 4 verso il confine con l'Austria, mentre al confine con la Francia prosegue il presidio di protesta da parte degli allevatori alla traforo del Fréjus. Al momento tuttavia non si segnalano difficoltà per il traffico. Raccomandiamo infine prudenza per il vento forte che soffia raffiche sul tratto pugliese della 16 Napoli-Canosa tra Candela e l'innesto con la 14 Adriatica, dove sta piovendo tra Fano e Ancona. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Per far crescere un'impresa bisogna far crescere le persone. Fondo Artigianato Formazione è il fondo che eroga contributi per la formazione professionale dei lavoratori. In questo modo Fondo Artigianato offre davvero un'occasione per chi lavora. Su www.fondartigianato.it si trova l'invito primo 2009 per la realizzazione di attività di formazione continua destinate a sostenere la competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. E chiamandolo 06 70 45 54 100 si possono avere informazioni. Conoscere le risorse, informarsi sui tempi, esporre bisogni e fare richieste. Gli speciali di Radio 24. Rieccoci per quest'ultima parte dello speciale di Radio 24 dedicato al discorso che in questo momento Barack Obama sta tenendo all'Università del Cairo. Un discorso negli ultimi minuti Barack Obama ha sottolineato la necessità di ristabilire dei rapporti di cordialità, se vogliamo, di dialogo aperto con l'Iran per superare quello che è comunque un contrasto, cioè la politica nucleare iraniana che gli Stati Uniti non possono accettare. Però la soluzione deve essere nel dialogo, nel confronto, nell'apertura, nella ricerca di soluzioni comuni. Sentiamo ancora Barack Obama, grazie a Gigi Donelli. Dopo il nucleare, il quarto tema è la democrazia. Ancora una volta, dice Obama, cerchiamo di essere chiari, nessun sistema di governo deve essere imposto ad una nazione da un'altra nazione. Questo, d'altra parte, non riduce il mio impegno, in ogni caso, per favorire i governi che riflettano la volontà del popolo. Ciascuna nazione trova questa possibilità nel modo proprio. E naturalmente si rifà la tradizione del suo popolo. Per noi è nella certezza della regola della legge, della corretta amministrazione della giustizia, in un governo che sia trasparente, che non rubi dalle tasche della propria gente, la libertà di vivere come uno crede di doverlo fare. E queste non sono idee americane, sono diritti umani e questi li sosterremo ovunque. E di qui gli applausi. Non c'è una strada chiara per realizzare questo progetto di democrazia, ma deve essere chiara una cosa. I governi che proteggono questo tipo di diritti sono, in ultima analisi, più stabili. hanno più successo e sono più sicuri, offrono più sicurezza. Sopprimere le idee non le ha mai fatte andare via e l'America rispetta il diritto di tutti per affermare pacificamente le proprie posizioni nello Stato e nel mondo, anche se non concordiamo con queste idee. Quest'ultimo punto è importante perché c'è chi è partigiano della democrazia solamente quando è in potere, al potere. Lo sostengono, chiedo scusa, solamente quando non sono al potere, ma una volta che sono al potere diventano privi di regole e sopprimono i diritti degli altri. Un governo democratico deve rispettare i diritti delle minoranze. Se vuoi essere un governo democratico, devi assicurare il potere attraverso il consenso e non la coercizione. Se non ci sono questi ingredienti, le elezioni da sole non possono portare la vera democrazia. Quinto tema, libertà religiosa. L'Islam ha una orgogliosa tradizione di tolleranza. Lo vediamo nella storia dell'Andalusia e di Cordoba durante l'Inquisizione. L'ho toccata con mano come bambino in Indonesia, dove i cristiani condividevano in libertà un paese a maggioranza musulmana. Questo è proprio lo spirito di cui abbiamo bisogno oggi. Le persone devono essere libere nel cuore, nella mente, nello spirito. Questa tolleranza religiosa è essenziale perché la religione prosperi. Ma viene sfidata, viene combattuta in molti modi. Attraverso in alcuni musulmani c'è la brutta tendenza di misurare la propria fede nella misura in cui si rigetta quella degli altri. La ricchezza della diversità religiosa deve essere invece sostenuta, così come in questo paese si sostengono i copti o in Libano i maroniti. E naturalmente queste divisioni corrono anche nel mondo islamico, per esempio tra i sunniti e gli sciiti, naturalmente, in particolarmente in Iraq. La libertà religione è un elemento centrale per determinare la capacità di un popolo di vivere insieme. Dobbiamo sempre considerare questa questione, dobbiamo proteggere questo obiettivo. Per questo mi impegno a lavorare con tutti i musulmani di America per assicurare che possano ottemperare la zakat, cioè i loro doveri religiosi. D'altra parte, è importante per i paesi occidentali di impedire che alcuni cittadini di religione musulmana possano imporre la propria religione, imponendo abiti o forme alle donne. Insomma, la fede deve unirci ed è per questo che faremo in modo di sostenere all'interno degli Stati Uniti tutto ciò che unisce cristiani, musulmani ed ebrei. Ed è per questo che abbiamo accolto con favore lo sforzo del re Abdallah di Arabia per il dialogo interreligioso e la leadership turca nella stessa direzione. E infine, il sesto tema, annuncia Barak, i diritti delle donne. temi molto forti quelli che Barack Obama porta all'attenzione del pubblico dell'Università del Cairo, temi molto forti che riguardano da vicino anche lo stesso paese, lo stesso Egitto, che ha problemi indubbiamente aperti di sviluppo, ma anche di democrazia. Ma gli applausi del pubblico, gli applausi della sala dimostrano la simpatia che Barack ha saputo portare, ha saputo proporre. Ha rivendicato il fatto di chiamarsi Barack Hussein Obama, ha rivendicato il fatto di essere anche lui un esponente che in qualche modo ha le sue radici nel mondo musulmano, e questo ha creato attorno alle sue parole questa attenzione e questa cordialità di fondo. Ecco, proprio sul fronte dei diritti delle donne di cui sta parlando è un altro punto delicato. Rubiamo qualche minuto, non manca molto alla fine del discorso, lo seguiremo fino in fondo chiedendo ai colleghi di GL Extra Large di pazientare qualche minuto. Gigi Donnelly. Le donne, dunque, dice, non è un caso, appena detto Barack Obama, che i paesi in cui le donne sono educate meglio sono anche quelli in cui c'è più benessere. E poi ha aggiunto, con un taglio chiaramente personale, le nostre figlie possono contribuire alla nostra società esattamente come i nostri figli. La nostra prosperità comune sarà ottenuta, raggiunta, autorizzando, permettendo all'intera umanità e dunque agli uomini e alle donne di esprimere il proprio pieno potenziale. Io non credo, dice Barack Obama, che le donne debbano fare esattamente le scelte degli uomini per essere uguali a noi. E io rispetto quelle donne che scelgono di vivere la propria vita in una forma e in un ruolo tradizionale, ma deve essere una scelta. Ed è per questo che gli Stati Uniti sosterranno qualsiasi paese a maggioranza musulmana che sosterrà la formazione scolastica delle ragazze, che aiuterà le donne ad affermarsi nella professione, anche attraverso programmi di microfinanziamenti. Infine, sviluppo economico e le opportunità. Internet e la televisione possono portare conoscenza e informazione, ma anche prodotti offensivi di tema sessuale e di violenza senza senso. Il commercio attraverso questi strumenti può crescere e accrescere il benessere collettivo, ma naturalmente può anche devastare intere comunità. In tutte le nazioni, e riguarda anche il mio paese, questo cambiamento che viviamo provoca paura, paura che la modernità, che attraverso la modernità si possa perdere il controllo delle nostre scelte economiche, delle nostre politiche e della nostra identità. Ma so anche che il progresso dell'umanità non può essere negato. Non c'è nessun bisogno di contraddizione tra sviluppo e tradizione. Paesi come il Giappone e la Corea del Sud crescono nelle loro economie mentre mantengono culture differenti. Lo stesso vale per il formidabile progresso di società a maggioranza musulmana come appunto Kuala Lumpur, in Malesia o Dubai. Nei tempi antichi e nei nostri tempi le comunità islamiche sono state e sono dunque all'avanguardia dell'innovazione e dell'educazione. Dobbiamo sostenere i ragazzi, i giovani che sono senza lavoro. Molti stati del Golfo hanno ottenuto un grande benessere grazie al petrolio e alcuni stanno cominciando a concentrarsi su sviluppi ulteriori. Ma tutti loro devono riconoscere che l'educazione e l'innovazione sarà la vera moneta del XXI secolo. E in troppi paesi a maggioranza musulmana questo non è percepito. Siamo in conclusione del discorso di Barack Obama, che Barack Obama, presidente americano, sta rivolgendo all'Università del Cairo. Un discorso che in quest'ultima fase sta toccando i punti più forti dello sviluppo umano. Abbiamo sentito come abbia parlato appunto del ruolo anche della televisione, del fatto dell'educazione come elemento importante e del fatto di sviluppare la libertà all'interno delle società. Sentiamo le frasi conclusive di Barack Obama. Favoriremo la partecipazione degli studenti musulmani con le internship, quindi gli scambi scolastici negli Stati Uniti e scambi universitari. Investiremo nella cultura dell'online, investiremo negli insegnanti e nella possibilità che i giovani partecipino ai programmi di formazione, e creeremo una nuova rete in modo che gli studenti del Kansas possano comunicare istantaneamente con i loro coetanei del Cairo. Scienza e tecnologia. Lanceremo un nuovo fondo di supporto tecnologico per i paesi a maggioranza musulmana. Apriremo dei centri di eccellenza scientifica in Africa, in Medio Oriente e nel sud-est asiatico, e indicheremo nuovi inviati scientifici per collaborare ai programmi di sviluppo sulle nuove fonti di energie, creare green jobs, quindi lavori verde e lavori nel settore digitale, per l'acqua pulita, per la crescita economica e dell'agricoltura. Oggi annuncio un nuovo sforzo globale all'interno dell'organizzazione della conferenza islamica per